CQ10. Con 5 watt, vediamo un po' di esatto, 5 watt, e mentre invece così come ho così ho aumentato un po'. E così sì, da 9,25 quasi a 9,30. Ah, ok, va bene, rimettiamo com'era, ecco qua, com'era, sì, com'era, no, un pochino di più. Adesso ecco qua con lo strumento 5 watt, ecco qua. Sì, vabbè, non ha cambiato niente il segnale, è rimasto stabile. E questo invece cosa mi dici, la radio com'è? Ottima radio, perfetta. Ma vabbè, questa è sempre la mia, ma siccome ho cambiato microfono volevo sapere se era uguale o meno. No, va bene, è ottimo, abbastanza. E il segnale 9,20 qua, mi sta segnando. Io sto usando 25 watt. Vabbè, poi modulati ce ne vanno un pochino di più, ma diciamo che è 25 watt. Ok, sì, va benissimo, non c'è problema. Alla grande, io ho l'antenna bassa, capito? Dunque non è che ho una grande ricezione, perché ho l'antenna troppo bassa. Ma mi è parso di aver visto, sì, sono un'antenna da te, se non mi sbaglio, dalla strada, principale. Ma è molto in basso, dunque, è attaccata praticamente un metro più in alto da avanzare della finestra. Va bene. Sono bene per farti sentire, Giulio. Come stai? Io bene, grazie. E tu, tutto a posto? Sì, i classici dolorini alla schiena, alla spalla, però si tira avanti. Vabbè, quelle sono dolori di affaticamento dal lavoro, eccetera. Tutti i giorni ce n'è qualcuno. Aspetta che provo a cambiare il microfono. Prova. Guarda che sei in banda. Aspetta un attimino. Sì, ero io, stavo accordando, questo è un altro mic, non so se è amplificato o meno, Giulio. Ma è buono, come il microfono è abbastanza buono. Vediamo un po', aumento un po' il volume per ascoltarti un po' più forte, prova di nuovo. Ah, vabbè, quindi c'è la differenza tra uno e l'altro, perché se hai ascoltato col volume basso l'altro, questo hai dovuto alzarlo. Ok, ho capito. Sì, adesso è anche aumentato un po' il segnale, 9.25 stai arrivando, non capisco perché, comunque è così. No, ho cambiato solo il mic. E allora si è scaldato un pochino e ha preso tutto a pieno regime, diciamo. Sì, diciamo che l'ho appena acceso, ho sentito la tua portante, mi ero appena seduto, niente di che comunque, dai. Va bene comunque come microfono, questo è un palmare, la saponetta, la classica saponetta, però è stato un pochino modificato. Sì, va bene, è un pochino più cupo del solito, però va bene, ultimo. Magari questo va meglio in banda. Magari può darsi pure, non lo so, però va bene, come microfono va bene, non c'è che dire. Bene, ho capito, e vabbè dai, l'importante è farsi sentire. Adesso trovo anche un altro microfono, aspetta che lo prendo. Ok, provo. Ci credi che non riesco, eccolo qua, non riuscivo a mollare la ghiera. Vabbè, cose che succedono. Questo invece è l'amplificato, questo è un amplificato con una modifica, non so se sta andando bene o se devo abbassare l'amplificazione. Ma per me non devi abbassare niente, è fortissimo, questo è fortissimo, proprio si sente una bella amplificazione chiara, pulita, di lusso. Io, per come sto ascoltando io, col volume che sto ascoltando, non devi abbassare assolutamente niente, per me va bene così. E allora Giulio, ho giudicato, dai, non sei la prima persona che me l'ha detto, quindi... non è che non tengo in considerazione anche gli altri, però voglio dire, un parere è meglio di due, no? Cioè due pareri sono meglio di uno. Ok, sì. No, ma già ti sto ascoltando anche bene, no, non c'è problema, continuo. Alla grande, una bellissima amplificazione anche, devo dire, fortissima e di lusso. Pensa che ho dovuto anche abbassare un po' il volume perché ti sentivo anche troppo forte, però chiarissimo. Vabbè, dai, magari con la saponetta è differente la cosa. Io sto parlando circa a 30 cm dal mic, ora... questa è la distanza che sto mantenendo per questo microfono. Ok, e io sono anche a 50 cm, quindi adesso mi sono avvicinato un po', adesso sono a 20 cm più o meno. Ma Giulio, credimi, ha migliorato tantissimo, Sì, perché intanto è a 1 il microfono, primo. Adesso mi sono di nuovo avvicinato a 20 cm, certo che migliora, lo credo, ma se mi allontano è ovvio, se poi invece dovessi aumentare io, allora il discorso è diverso, posso anche modulare da più lontano, però così a 20 cm come solitamente faccio va bene, suppongo che vada bene, dai. Sì. Sì, adesso per comodità mi sono allontanato io, dai. vabbè, dai, già si capisce. Caspita se si capisce, altro che va alla grande, veramente, no? Non c'è che dire. Ah, devo dire che ti ho sempre sentito bene io non ricordo di averti mai sentito male. Tu arrivi bene dappertutto. Giulio, diciamo che ho curato molto la parte microfonica, diciamo, mi è sempre interessata la parte microfonica, a parte vabbè, qualche piccolo amplificatore che magari ho provato per gioco, però mi interessava molto la radio, insomma è una cosa che realmente va, magari arrivi anche senza segnale, però è una bella radio, caspita. E spinge è ancora più contento. E certo che sì, è la cosa più importante quella, la radio, farsi capire al 100% senza avere nessuna difficoltà per chi ti ascolta. Così va benissimo, Tino, no? Non c'è problema, va veramente bene. Va bene, la lasciamo così, anche perché stavo cercando di accoppiare dei microfoni e per migliorare un po' la modulazione, ecco. Sì, ma questo è ultimo, l'altro era buonissimo, questo è addirittura ottimo. Va bene. Adesso voglio provare anche altri due microfoni, ma non ho voglia di credere di fare connessione con le varie, perché ho anche un panel più 3 e un più 4 della ZG. Provarle, ma questo è un altro pianeta. Ok, ho capito, sì. Dove l'hai abbinato? A 45? Sì. E dico che non va bene in questa frequenza 45, ma sei eccezionale, cosa non va bene? Boh, non lo so come. Vabbè, sono dicerie e sono anche, scusa, tu mi insegni che queste cose, va bene, sono per poter parlare in altre frequenze, però voglio dire, se uno ha un po' di pazienza, ha un mixer, ha un'altra persona dall'altra parte che gli fa regolare magari gli alti e i bassi, perché giustamente tu lo puoi fare in monitor, non è mai come quando ti ascoltano. Se riesci a portare la tua timbrica di modulazione allo stato ottimale, non vedo perché non dovrebbe andare bene la radio. E infatti è questione di aggiustamento da entrambe le parti, da chi trasmette e da chi ascolta anche, questo è normale. Vai tu e spiega a certe persone, noi accettiamo tutti chiaramente, come arrivano in aria, va bene, non c'è problema, però dipende dall'individuo sapersi regolare, no? Certo di sì, Giulio, certo di sì. No, vabbè, ma io sono scelte di chi modula, che a chi piace l'eco, a chi anche a me piace l'eco, se non è molto, ma per gioco, non per modulare, per gioco, giusto così, su 45 per scazziare un po', per divertirsi, per andare in altre frequenze a giocare, però vuol dire modulare, fare, se per dire vuoi fare salotto ti metti un mic meno amplificato e più tranquillo, eccetera, non è che, ma a me è sempre piaciuta un pochino la radio con un po' di amplificazione in più, un po' più rauca, un po' più prepotente, sono gusti, magari a chi mi ascolta magari non le piace, vabbè, se ne faccio una ragione. Perché non tutte le voci che senti possono essere uguali, poi ognuno trasmette come crede, tu mi devi accettare come io ti mi faccio sentire, il discorso è questo, per cui poi sì, si può anche discutere, chiacchierare, dire ognuno di noi la nostra impressione, come va e come non va a riguardo di qualsiasi microfono, però poi alla fin fine non è che si può pretendere che con tutti quelli che senti che debbano essere tutti uguali, no, assolutamente no, bisogna accettare quello che arriva, del resto è così. Un parere, nel senso che se ti sento saturo, se ti sento barattoloso, ti dico la mia, non è che puoi fare se ti vuoi migliorare o meno, questo è quanto. Oh yeah. Vabbè. Comunque, oggi è festa, c'è una brutta giornata come al solito, quando c'è festa, vuol dire che penseremo a fare il fuoco e cercare di passare 10 minuti con la famiglia in più. Certo che sì, ma tu sei già nella posizione ideale per questi giorni, sia per oggi che anche per domani, per cui no, non hai problemi. Io se voglio avere qualcosa di diverso mi devo spostare, ma non vado da nessuna parte, intanto perché la giornata è ventilata anche, c'è abbastanza vento qua perlomeno, si sente veramente, per cui no, non so, no, me la rimango a casa tranquillo e pacifico con qualche parente, per cui va bene così, ottimo. Sì, è voglia. Va bene, l'importante è passarla in armonia, tranquilli, tirare avanti la giornata, tanto per i tempi che corrono. Ma vuol dire non mi sentite oggi? Vogliamo pretendere, se tutto sommato, se poco dovessimo ragionare in maniera un po' obiettiva, quando uno passa bene la giornata è sempre festa, per cui no, va bene così, interessante avere sempre buona salute e tutto quello che serve per vivere, poi per il resto non strabizi non ne facciamo, dai. Allora, mi è parso di aver sentito qualcuno sotto, che avanti con la buona giornata. e ben sentiti tutti e due, è che avete il dito veloce e non mi sentivate per quello, perché mi parlevate sopra. Buongiorno a tutti e due, dai. Non so se c'è altra gente perché non ho fatto ascolto. Ciao Mattare, buongiorno. Ma io ti ho sentito sotto, per quello ti ho mandato avanti. E vabbè, abbiamo iniziato io e Giulio il corso, c'è sempre gente all'ascolto, però molte volte non vogliono entrare, quindi eravamo a ping pong. Dai, ti mando avanti a Giulio, vai Giulio. Ok, ciao Natalie, ben entrato. Sì, infatti poc'anzi anch'io stavo chiamando, diciamo una mezz'oretta fa, stavo chiamando ma non ho sentito nessuno, e poi alla fine mi ha visto la portante Tino ed ecco che abbiamo iniziato con questo. Abbiamo fatto qualche piccolo controllo ed è tutto lì. Oh, Natalie, avanti, le prendi. Sì, ho capito, però forse bisogna tornare ai vecchi metodi. E questo qui di riprendere senza essere rilanciato non è che vada bene, perché andiamo incontro a sovramodulazioni, capito? Io sono più lento e voi siete velocissimi, quindi è per quello che non mi avevate sentito. Ok, dai. Ehi, tu sei lento, tu non sei lento. Tu non è che sei lento. Dice, può darsi che noi eravamo troppo svizzi, d'accordo, però diciamo che secondo me lo spazio già c'era. Dai, tanto è vero, Tino ti ha ascoltato, per cui, mentre io modulavo. Avanti ti. Beh, vedi, adesso Giulio ha dato una buona dimostrazione del rilancio, mentre tu Natalì che hai detto non l'hai fatto. E qua ti punisco, meno uno per te. Vai Natalì. Poi c'era il cane che stava abbaiando, capito? E non potevo riprendere, se non si sentiva più lui che io. C'ha la voce più grossa e più prepotente di me, questo cane. Riprendi giù. Ok, c'è stato un brecco. Avanti, chi era? Brecco, brecco, brecco, brecco, avanti. Ecco, questa breccata non viene avanti, forse non riusciamo a sentirlo adesso. Sì, no, non so se tu senti qualcuno, questo ha fatto brecco, brecco, brecco, brecco, 3 o 4 volte. Sì, l'ho sentito, però non vuole venire avanti, vabbè, vuol dire che vuole farsene tranquillo e buono. Natalie, hai ragione, guarda, è che purtroppo sto notando poca attività sulla 27, siamo 2-3 gatti e quindi magari questa abitudine, chiamiamola così, è andata a disperdersi, perché giustamente quando c'erano delle grandi ruote uno slanciava l'altro e vabbè, ci salva. Oggi siamo in 4, quindi non dico chi fa prima, però ci sta anche, dai. Se sono state le grandi ruote, allora hai ragione. Ma riprendi Natalie. Sì, anche perché con 2 watt mi passano tutti sopra e quindi cosa vuoi fare? Oltre che sono lento e schiaccio in ritardo, perché realmente ho notato di essere più lento di molta gente. Tutti mi sovramodulano, capito? È per quello che stavo dicendo quello che ho detto. D'accordo. Vabbè, 2 watt, quasi arrivi quasi a 9,20 e se 9,15. È un bel segnale, non è che sei basso, avrei anche 2 watt, però la portante già la si vede, è vero Giulio? Ok, io Tino, ho cambiato, questo è un baracchinetto da 2 watt, penso che già mi senti ugualmente, dai, vai ancora Tino. Sì, la voglia, è un po' più distante, ti ascolto, è come che sei col mic molto, molto lontano dalla bocca. Questo è un altro microfono, è un altro tutto, per cui se poi naturalmente faccio così, allora magari mi senti un pochino meglio, senz'altro è così, questo è un baracchinetto da 4 soldi o Tino, però diciamo che va bene ugualmente, già mi sento lo stesso un po' dappertutto. Riprendi ancora, vai, fai girare tu. Sì, arrivi alla grande. Ma quindi ti stava sovrammodulando anche il cane? Sì. Per guarda, lo dico. Si è mangiato su, non mi intendi più a me. Con questo microfono qua che si ne biglia tutta raga. Mi guarda, proprio stamattina, e poi rilancio a Giulio, proprio stamattina stavo combattendo con il mio, perché io abitando in campagna, la rete in alcuni punti, insomma, lui già ha la testa per poterlo fare, è un rottweiler, quindi ha la forza anche di poter spingere e passare. L'ho trovato dal confinante, quindi proprio stamattina, ti ripeto, stavo chiudendo rette per non dar fastidio agli altri, ma il fatto è che lui è entrato da un confinante per andare a finire da un altro confinante, quindi ha rotto due rotti cani. Guarda, anche se io l'ho abituato a starsene nel suo posto, nella sua cuccia, per modo di dire, lui ha un cuscino dove dorme sotto la veranda, insomma, nel suo posto, però deve spaziare, mi ha portato già un paio di 4-5 rici di marcia e mi mette vicino alla porta, quindi lui va a caccia la notte, capito? E vabbè, vai giù. Ok, di tiro, e poc'anzi stavamo parlando di anche di ecco, no? Nemmeno a me non è che ho tanta passione per l'ecco, anche di più niente, ma adesso te l'ho voluto far sentire, una puntina così, e poi mi darai la tua impressione, com'è, per cui va bene così, anche perché questo è un baracchino che ho da poco, dai. La radio, vabbè, non ha niente a che vedere con quella che avevi prima, è amplificata, fa effetto eco, sempre un pochino in lontananza, però va bene, comprensibilissimo, non si sovraccavalla la modulazione, va bene, io parlo così per gioco, o mi potrebbe anche piacere. Vai Natalia. Ehi, ce l'ho anch'io, mi guarda. Si sente l'eco, guarda, 1, 2, 3. Al contrario del tuo, quello di Giulio è un pochino più ripetitivo, il tuo invece si sente molto la tua modulazione, è quasi all'effetto finale, fa l'eco, ma leggero. Sì, dipende da come è regolato, sono simili i due apparecchi. Questo è un AT5555, un Anitone, questo qui sarebbe un 6009 praticamente, un 5005, come lo vuoi chiamare? Ah, sì, ce l'ho anche io la TR5005, è bella radio, mi piace, sì, simile al Pluto, al 6009. Ce l'ho attaccato, però dovrei cambiare antenna per farlo sentire. Ce l'ho anche io voi. Sì, sono apparecchietti da nulla, ma già funzionano bene. A me mi si è scassato il 3009, per esempio. Mi si è scassato. E lo devo aggiustare. Vabbè. Meno male che avevo questo, se no rimanevo a piedi, là. Se vuoi ti do un Zodiac, vecchio stampo. E uno a LED, così recuperato, ma funziona lo stesso, è 5 watt. No, quella HR5005 che ho io mi avevo fatto fare la modifica, da mezzo watt va a finire sino a quasi 40 watt, però in base come lo regoli, lo sai che ha la regolazione dei watt anche. E va forte, caspita, è stato cambiato qualcosa all'interno, io sinceramente non me ne intendo, l'ho fatto fare a un amico che è un esperto di grande radio, già mi avete capito chi è, però si gioca anche con questi piccolini, e va molto bene, molto bene. E avrà magari sostituito i finali, perché quello c'è, cioè, doppi finali, e li avrà messi più grossi, magari arrivare a 40 watt, non lo so io, va benissimo. Sì, ma il bello è che fa, il bello è, poi ti rilancio Giulio, non ti ho dimenticato, il bello è che fa, lo puoi mettere per dire un mezzo watt, un watt, 5 watt, ma lui fa da 5 a 40 quasi, 38 dai, una cosa del genere, oppure fa da mezzo watt a 38, capito? Sono tutti picchi di modulazione, in base, allora succede così, che se tu metti 5 watt la portante per dire ti arriva 9,10, no? Se ne metti 10 ti arriva 9,15, però fa da 9,15 a 9,20 perché ti dà la portante in, in positivo. Questo è un po' come mi ha spiegato, hai capito? Oppure magari metti mezzo watt e ti arriva a Santiago 5, da Santiago 5 però fa da 5 a 9,20, capito? Questa è una cosa che mi ha spiegato lui e va bene così. Vai Giulio. Ok, tiro, sì, beh certo, è così, anch'io così, con la Simile 9, diciamo che sono simili, come stava dicendo proprio Natalino, anche al 5005 sono simili, no, non c'è problema, per cui va bene, che anche questo ha una piccola regolazione, ma io lo uso solitamente a 2 watt, adesso magari saranno 10 in questo momento, però di solito io lo uso a 2 watt e mi va bene così, Tino. Ecco, ti abbiamo fatto entrare, però non sei entrato. Avanti, chi è? Guarda, io ti ascolto, ma hai un innesco sotto e non ho capito niente di quello che, hai detto. Chi sei? Giovanni. Giulio, se tu lo ascolti meglio, io lo ascolto con un innesco che per poco non riesco a ascoltare la sua modulazione. Ma avanti tu con lui, dai. Ok, ciao Giovanni, sì, hai un annesco tremendo. No, ha detto che sta facendo collegamenti strani, forse sta collegando qualche microfono evidentemente, e allora non ha trovato ancora la posizione giusta dei contatti e sta fischiando. Giovanni, rimedia perché stai fischiando maledettamente. Avanti Natalia. Sì, capo, io non lo sento neanche a Giovanni. Cosa ti volevo dire? Guarda il segnale, Tino, che adesso provo a vedere come ti arrivo, come lo regolo. Sì, vai, vai, prova. Guarda, questo è l'altro passaggio, 1, 2, 3, prova, dai. Lo rimetto come era prima. Sì, 9, 18, diciamo così, prova come era prima. Guarda, adesso come era prima è così, 2 watt, dai. Allora, Natalino, ti posso garantire che con i picchi di modulazione arrivi allo stesso segnale di quando è alzato. Lo stesso segnale di quando ho alzato? Può anche essere. Sì, sì, con i picchi di modulazione a me mi segna così. Ci manca cosa ti posso dire? Uno spazio di uno spillo per poter arrivare con i watt alti che avvivi. Figurati. Io non gli ho fatto niente, questo l'ho preso nuovo e non gli ho regolato niente. E così si vede che fa i picchi di modulazione, quello sì. C'ho anche il microfono basso, perché ce l'ho a 3. Guarda, adesso lo metto a metà, guarda, adesso è a 5, dai. Scusa, dai, mi sono dovuto rompere. Un collegamento di antenna, qui forse ho perso un attimino, aspetta un attimino, qua sono troppo alti. Questo è l'altro, questo è l'HR 5005, sta andando? Sì, a me mi arrivi quasi fondo scala. E la radio è sporca, com'è? No, la radio va benissimo, va benissimo. Non bene, no, benissimo va. Questo è un MB più 4, l'ho messo a 5, però ce l'avevo a 3, così ce l'avevo, guarda. Perché se lo metto a 5 è troppo sensibile e si portava dentro tante cose questo microfono, capito? Capo positivo, dai. Vediamo, adesso lo sto aiutando questo, Accordiamo. Vediamo un attimino. Dimmi se la radio. Aspetta. Se la radio ha cambiato, se è satura, se è distorta, non lo so. Guarda, la radio va benissimo, è 5, fatelo dire anche da Giulia. Sì, confermo, la radio è ottima, è sempre, sempre bellissima, Ottino. Poi in quanto a segnale, guarda, io ho il massimo qui con questo baracchino, mi segna a LED, tra l'altro, lo smitter a LED, arriva a 9.30 e tu a 9.30 arrivi probabilmente anche di più, per cui va bene alla grande, no, non c'è problema, Ottino. Non c'è una minima inclinazione in nessun modo, sia di segnale che di radio, è perfetto, veramente perfetto, guarda. Adesso si accontentano anche a voi, dai, con questi ecco che a me sinceramente non è che mi vola tanto, però era giusto per farvi sentire un pochino la modulazione con questa HR525. Va benissimo anche l'ecco, va benissimo anche l'ecco, OT, non ha tante ripetizioni, va benissimo, magari è tipo come quello che ho io, là. Non lo so, vai Giulio, come ti sembra, posso aumentare, abbassare, lascio, perché io in questa radio l'unica cosa che gli ho fatto, gli ho messo un puntino di bianco per sapere come doveva essere regolato l'ecco, ma niente di che. Sì, va benissimo Tino, va benissimo anche con l'ecco, anche leggermente di meno forse va anche meglio. Io infatti da prima adesso l'ho abbassata ancora un pochino la ripetizione dell'ecco, proprio per avere meno ripetizione, perché poc'anzi avete detto che ripeteva un po' di più di quello di Natalino il mio. Io l'ho abbassato un puntino, ma proprio poco. E probabilmente anche tu se l'abbassi di meno forse è anche più chiara. Però ripeto, è bellissimo, va benissimo con tutte le lettere maiuscole. E questo, Natali, è la HR5005 in accoppiata con l'MB+5, però ho anche il 4, ma non ho voglia di fare le connessioni microfoniche, tenendo conto che sto spingendo oltre i 750, va bene, va. Io se la radio è una satula o cosa, te lo dicevo subito. Secondo me va benissimo. Tutto per provare in giornata, perché se no rimane troppo riposato, quello lì e le valvole si lamentano. E allora, no, sono stato contento che ho trovato le valvole, diciamo, se non al 100%, al 95%, perché questo amplificatore qua ne ha 5 di valvola, e devo dire la verità, con quelle che aveva non soddisfavano l'esigenza, perché lavorava intorno ai 500, poi se ne scendeva 200, 150, e lavorava dai 150 ai 200. E, vabbè, avere una cosa così grande però non capito. Ho capito, evidentemente non stava funzionando bene, invece con queste qui va alla grande. Sì, tu che sei più esperto di me in presidente, se non mi sbaglio, ce l'hai avuto tu il presidente tanti anni fa, l'anno ce l'aveva, non mi ricordo, uno di due ce l'avevate, con che microfono l'avevate accoppiato? Mi sa, con l'MB+4 io ce l'avevo. Io ce l'avevo il presidente Lincoln. Mi ricordavo una cosa del genere. Andava molto bene come amplificazione, come radio, come tutto. Perché io ne ho uno, un Palmare, della Dynamic. Ma uno standard Dynamic, ma la modulazione è troppo nasina. È brutto, brutto, brutto. Prova a abbinargli l'MB+4, altro non ti posso dire, ma gli attacchi all'MB+4 lì, e così il 5 te lo usi qua e il 4 col president. Diciamo che sono baracchini da gioco, quindi non è che li uso spesso, cioè li ho attaccati così perché ogni tanto li voglio accendere per comodità, quindi per farli scaldare, per dargli una vita anche a loro, io utilizzo altre, altre tipologie di radio. Però vabbè, sulla 27 va più che bene. Vai Giulio. Sì, vanno bene tutti, vanno bene, non c'è problema. Ma io ce l'avevo il presidente e lo utilizzavo con vari microfoni e lo utilizzavo soprattutto con il Sa Delta, quello Plus, o Pro come si chiama, che non mi ricordo, che adesso tra l'altro non mi funziona più quel microfono. Però poi ultimamente l'avevo usato anche con il MB4 e andava benissimo, non c'era problema. Sì, ma poi dipende anche dal tipo di timbrica di voce che uno ha, o Tino, bisogna considerare anche quello, per cui magari a te ti si addice, a me no, un certo tipo di microfono, funziona così anche, vai ti. Ah sì sì, niente di, certo, vabbè, lo so, infatti io ne ho cambiato un po' per poter raggiungere la soglia della timbrica dello stesso, anche se non lo raggiungerò mai, perché voglio dire, l'MC60 è molto differente dal più 4, dal più 5, dal TAM, quindi è un'altra cosa, vabbè. Ho provato anche l'MD200, ma a quanto pare sembra un palmare. Vabbè, ripeto, ogni microfono ha le sue caratteristiche, è ovvio, per cui, però in linea di massima vanno bene tutti, dai, vanno bene tutti, non c'è problema. E poi torniamo sempre a quel discorso, mi ascoltate? Sì, e allora sono contento, io ho ragione in questo modo. Avanti Natalini. E infatti, l'importante è che esca bene, poi lui ha una bella timbrica, Tino. Quindi in linea di massima, se lui attacca le MV4 al presidente, dovrebbe uscire una bomba. Guarda Natali, ti dico la verità, avevo anche i carretti per gli spezzoni, diciamo, per collegare il presidente con il più 5, il più 4, ma adesso non ricordo neanche qual è, perché ne ho uno, ma non so se è questo o meno, so che avrei fatto sentire. Lo so, io per esempio l'MP4 lo usavo col 440, batte un conto, anche Giulio con lo spezzone, adesso è attaccato a uno spezzone lo stesso, siccome l'MP4 ha il suo cavo che è corto, e per arrivare dove è l'apparato gli ho dovuto mettere questo spezzone qua. E ne ho uno anche che fa dall'MB+4 al 440, che esce con un topuli, capito? Ho capito. Va bene, dai, rilancio a Giulio, un attimino, devo portare la radio, arrivo subito, vai giù. Ok, riprendo io, vediamo un po' se Giovanni ha sistemato il microfono. Giovanni, ci sei ancora? Dai un colpo, dai, vediamo un po' se hai sistemato col microfono che fischiava poc'anzi. Giovanni? Giovanni, no, c'è sempre il fischietto, e la modulazione è molto bassa, c'è sempre il fischietto, io ti sento, ma probabilmente Natalino non ti sente, che è più lontano. Vero Natalino, hai sentito a Giovanni? Giovanni di Platamona? Negativo, ma perché Cata? Lo senti? Sentivo sempre e adesso ha cambiato qualcosa, boh. Si vede, evidentemente stava cambiando microfono e sta facendo i collegamenti, credo che sia così, perché anch'io lo sento basso, però cioè, va, dai, continua, prova, magari poi ti richiamo e poi ti richiamo e vediamo un po', o perlomeno entri tu dopo che hai fatto il cambio di contatti eccetera eccetera. Ok Giovanni, ok, d'accordo Giovanni, dai, ti richiamo comunque, così vediamo un po' se hai risolto. Sì, Natali, è troppo basso, lo sento anche, tra l'altro evidentemente il microfono non è sistemato a dovere, per cui non è quello che non lo senti tu per niente. Io vabbè sono un po' più vicino di te a lui e allora riesco a sentire qualcosa che dice. Ok, vediamo se Tino è rientrato. Tino, sei rientrato? Tino non è rientrato, vabbè, dai, riprendi tu Natali, dai, già ritorna subito Tino. Aspetta un attimo che mi ha chiamato qua, mi hanno l'hanno chiamata al telefono, ma deve essere che io non l'ho sentito. Devo fare una telefonata urgente, giù. Fai, fai, dai, io rimango in ascolto, dai. Poi qualcuno arriverà. Fai, fai pure, Natalia, non c'è problema. Sì, sì, sono qua, sono qua. Ho provato ad attaccare il più 4 col corretto, ma vuole girare la portante praticamente, la tengo premuta e rimango in Corrix, la mollo e rimango in trasmissione. E allora bisogna cambiare qualche contatto. No, io il microfono magari posso usare sempre lo stesso, no? Però i vari spezzoni, perché si sa, lo sappiamo che non tutti i collegamenti sono compatibili. Allora io ho fatto lo spezzone, ho fatto, e quando devo utilizzare un tipo di radiolina uso quel tipo di spezzone per poter essere compatibile poi col collegamento del microfono. E faccio così io sempre. Sì, Giulio, sì, tu pensa che, vabbè, io volevo fare, ma è il tempo che mi manca, e sinceramente non sono in condizioni di poter lavorare vicino alla radio, nel senso che ho una scrivania mignon dove è il radio di microfoni e ci fa giusto un foglio e una penna nel caso dovessi scrivere qualcosa, quindi non ci posso lavorare col saldatore, insomma un po', adesso vediamo, perché la mia intenzione sarebbe di farmi una piccola sala radio nella seconda entrata di casa, che è inutilizzabile, nel senso che da quando l'ho fatta non l'ho mai messa in atto, mai messa in opera, e quindi ho intenzione di chiudermela e di fare una sorta di sgabuzzino, esce, direi, ciao. Se è troppo piccolo vuol dire che lo utilizzerò come sgabuzzino, se invece va bene lo userò come sala radio. Non è grandissimo, però vuol dire ci fa una bella scrivania abbastanza grande, la larghezza sembra che sia intorno ai 3,50 per credo 2 metri, lì dovrò fare, insomma, stringermi un pochino e entrarci, vediamo, ci sto pensando. Ok, io adesso ho cambiato microfono, adesso ho messo un microfono originale di questo 6009, sicuramente ho peggiorato, però diciamo questo è il suo originale e dovrebbe funzionare ugualmente discretamente, non dico benissimo, però discretamente dovrebbe funzionare. Il microfono fa male come una saponetta, piccolino, e tra l'altro ha il cambio canali anche dal microfono oltretutto, nonostante che lo spinotto è sempre a quattro punte, è fatto così questo. Ma Giulio, va bene, cosa ti posso dire, va benissimo, è anche amplificato, va bene, io lo stesso, il suo microfono originale di questa radio qua, non l'ho buttato, dimenticato, attenzione, quello è un microfono che va bene per questa radio. Sì, appunto, l'ho voluto provare perché avevo poi adattato sempre tramite lo spezzone, no? Avevo adattato l'MB4 che era poc'anzi quello che stavo usando. Adesso invece questo è il suo originalissimo, l'ho usato molto poco perché questo è un baracchino che ce l'ho un anno praticamente, per cui, però è nuovo, non è stato toccato mai, anzi non è stato mai aperto, io non lo apro mai nemmeno, non mi interessa vedere dentro, a me mi interessa che funzioni e basta. Quando io non riesco a trasmettere e ad ascoltare, io sono più contento del mondo. No, io invece sono su questi barattini piccolini, sono un po' per le modifiche, giustamente ho anche altri, sono 2 o 3 Midran AM48 che sono entrambi modificati, 120 canali, l'unica modifica che non li faccio fare è quella dell'eco, perché sinceramente non mi interessa, però il resto, doppio modulatore, hanno tutto, tranne che il beep e l'eco. Sì, anche il beep, questo ce l'ha il beep lo stesso, ma non lo uso mai io, che sarebbe bene usare per sapere che quando uno finisce di trasmettere sarebbe bene usarlo, ma questo è considerato che tutto sommato non è così fondamentale che si usi, va bene lo stesso, però ripeto c'è sempre in questo momento ho sempre quella puntina di eco e non di più, se potrei anche aumentarlo, vedi, potrei anche allungarlo così come volendomi, adesso così è al massimo, sicuramente va all'infinito la ripetizione, lo rimetto come la prima e dunque va bene così. Righty. Sì, però quando lo aumenti del tutto è incomprensibile la radio, perché magari perché parli troppo veloce in confronto all'eco. Ecco. Adesso ti faccio sentire il bip che ho regolato questa radio qua, perché l'ho regolato insieme a Marco Condor, mi ha detto come fare e sinceramente non sono fatto lì a leggere il manuale di istruzioni. Questo è il bip che ho io, guarda. Sì, così. E questo è il mio, guarda, Quello invece è più prolungato, quello è più prolungato, questo è più secco. Sì, il tuo è più secco, sì, però è più squillante il tuo, il mio rimane un po' più cupo, il tuo è proprio bello, bello squillante. Infatti, l'ho sentito a lui, ho detto come è fatto, allora entra il function, insomma, mi ha detto un po' come fare, adesso non mi ricordo più, però, no, già è bellino, una radio piccolina, una radio che si fa rispettare, una radio che si presta molto alle modifiche anche, una cosa bella di questa modifica che è stata fatta è che puoi mettere qualsiasi tipo di amplificatore, dal piccolo al grande, e non va a saturare, ecco. Sì, no, in quanto a quello sì, è bello. No, diciamo che sono tutti simili, perché con questo tipo di funzionamento ce ne sono, mi sembra, 15, 17 o 18 addirittura, magari la figura, il coso è diverso, la marca è anche diversa, però la modulazione e la timbrica è tutta sempre quella, è sempre quello, no? Perché il modulo interno, tutto quello che c'è dentro è uguale, solo che ogni vita si chiede il suo logo e allora ecco che cambiano i sistemi anche di apparenza eccetera, invece dentro è tutto uguale o questi generi, ce ne sono una quindicina, tutti uguali o Tino. Sì, andiamo, Tino, ora che fa. Una volta che si stabilizza rimane, sono contento, va bene. E già sta andando. No, mi piace questo amplificatore perché si è stabilizzato, rimane sempre lo stesso. Invece quando non andava bene se ne scendeva molto, molto di potenza, ecco. Com'è, valvolare o transistorizzato quello? No, questo è valvolare, questo è il Galaxy 1000. E allora si sa, è così, inizialmente ha bisogno che prenda temperatura, dopodiché si stabilizza e rimane così, anzi diciamo che va sempre meglio, mentre invece quando è transistorizzato parte subito immediatamente, è più sprint in poche parole, mentre invece quando è valvolare così funziona anche meglio, secondo me è più affidabile soprattutto. Il problema sarà delle valvole, un domani che si esauriscono un po' sarà quello il problema, anche perché le valvole costano, però valvolare, tutte le apparecchiature valvolari hanno una fedeltà migliore. Sì, vabbè, io non è che lo sto sfruttando al 100%, nel senso che non sono ogni giorno che lo adopero, giusto magari qualche fine settimana, così, qualche giorno di festa, giusto per accenderlo, scattare un po', anche perché sinceramente parlando, se ti dovesse servire al momento, forse è arrivata gente perché sta bagliando il cane, diciamo che dovesse servire al momento, vive a portare. Ragazzi, io devo mollare, dai, è arrivata gente, è arrivata qua in casa, quindi mi sembra brutto che io rimango qua in stazione per lasciare la gente in disparte. Ci ci sentiamo, saluto tutti gli ascoltoni e niente, ciao Giulio, riprendi tu, aspetta i saluti poi vado via. Ok, ciao Tino, grazie per la chiacchierata, dai, buona giornata e buona giornata festiva soprattutto, salutoni in casa. Ciao Tino, alle prossime, buon pranzo quando lo farai, ciao. Ehi, salutatemi anche a Natalino, dai, che non rientro, ciao a tutti. Senz'altro sarà fatto, ciao Tino, alle prossime.